scimmette la sorte. Io so far le differenti, mangiarose pertinenti. Io so stanca di soffrire, sì, so stanca, so stanca, so stanca di soffrire, sì, so stanca, so stanca, so stanca di soffrire, sì, di soffrire, sì, di soffrire. Di qualunque innamorato, ma tormento del passato, tutto bene che può venirsi, comprendo, comprendo, tutto bene che può venirsi, comprendo, comprendo, tutto bene che può venirsi, tutto quel che può venirsi, tutto quel che può venirsi, tutto quel che può venirsi. Amante, è un gran servizio. Donna scaltra è un precipizio. Meglio un turco che un piccone. Meglio il fiasco che l'ampione. Meglio un turco meglio il fiasco che un piccone. Che l'ampione meglio il fiasco, meglio il fiasco, meglio il fiasco, meglio il fiasco. Spagna al diavolo in malora. Più una donna di un fuoco di garrì. Buonanotte, sì signora, ho finito l'impazzir. Vanna dio, buonanotte, farò il malore. Buonanotte, più una donna, ho finito l'impazzir. No, no, buonanotte, sì signora, vanna dio, ho finito l'impazzir. Ho finito, finito, finito, l'impazzir. Ho finito, finito, finito, l'impazzir. Sarà quel che sarà, sì, sì, sarà quel che sarà.

pezzo, o che pezzo la sole tolo, ma conviene di Me stesso fai scordare. vedo, non so comprendere da te. Oh mio, che fulmine, non so rispondere. Amore, aiutami, però rispondi. Confusi e stupidi, incerti, vedo, non so comprendere da te. Thank you. me stesso Dio, su questo lido trovo in dono e lo ritrovo in fido. Or ti leggo, la nota resta, avvolata Isabella, in che peccai che mi fuggi così? Lo chiedi ancora, tu che sposa del vino? Io, e di condurla, non di sposarla.